Luca, ci sei? Zucucciù. Chi è? Io sono Nataloide. Ciao Macolino. Ciao Natali. Ho gradito la foto, io la guardo ovviamente a pranzo. Però ho visto che quasi di mattina c'è il regalino lì. Kappa. Io stavo così girando i canali, bande alte, bande 10 metri, tripla 5, c'è un bel po' di movimento, anche su questi canali sono già botto, arrivano 9, in molti canali, in molte stazioni 9, in AM, in FM, in SSB, addirittura sul 12 c'era una specie di Barrot. E c'erano due persone, c'era Gavino e Franco di Sorso, e praticamente si sentiva la parola ripetuta come se fosse un Parrot, quello che si usava in PMR, però collegato a un baracchino. E Pomponio ce l'avevo segnalato, forse veniva dalla Spagna, credo che fosse roba di propagazione, però, perché il segnale andava e veniva, capito? Sentivi le parole che dicevi. Capito. Che poi non so che senso abbia un Parrot in 27, però qualcuno lo metteva, poi se da Spagna non lo so esattamente. Qua la modulazione è a posto, tutto normale, vedi un po', 1, 2, 3. Ah, qua è tutto normale. Allora, sto usando il gemello minore, diciamo il fratello minore del 5005, questo è la Linco DX10, già te lo ricordi, praticamente ha le stesse cose ma è più piccolo l'apparato, in scala ridotta, K, mic originale. E funziona benissimo. Io chiudete tutto, c'è la Medusa. Già nel caldo. Ho capito, bello bene. Ho cosa vuoi che ti faccio mangiare il brodino di mammo? Ho mangiato già la merendina. Al cioccolato, tipo fiesta, che buono. Vizioso. Vizioso. Buonasera a tutti. Ciao Marco, ciao, mi sentite là. Ho appena acceso, adesso non so chi ci sia. Oh, yeah. Non ho fatto ascolto. Io, ma e tu? Non c'è altro nessuno. Meglio pochi ma buoni. Poca gente, meglio festa. Allora Gianni, se c'è il bip a 1000 Hz lo voglio anch'io. Io. Cosa? Se c'è il bip a 1000 Hz lo voglio anch'io. Io. Perché a 1000 Hz? Dalla frequenza sembra 1000 Hz o giù di lì, dai. Come questo, mi lo senti? Il mio come fa? Come il mio. Io. Ah. Ed è a 1000 Hz. Più o meno, dai, diciamo il tuo è appena più acuto, potrebbe essere 1050 o 1100 Hz, K. Sto usando la Linco, il DX10, K. Va bene, c'è qualcuno che era sotto, che stava parlando. Forse abbiamo parlato in due, vai Natali. Io sto usando la LAN 725. Cos'è, nuovo? Alan 725, vado a volerlo. Vai. Alan, ho capito. Sì, è il nuovo modello. Questo è bello. Marco lo conosce già. Può essere, sì, può darsi che l'abbia già visto. Cappa. A proposito, ma Midland non fa più baracchini con SSB, cioè sono tutti MFM, non c'è più nemmeno il famoso 8001, quello col frequenzimetro, tutto sta andando così, vabbè, in 27 c'è poco interesse, ma la CRT in confronto fa un bel apparecchi, anche con l'SSB completi, dai. Io vendimene uno. Ma l'altro giorno hai detto che ormai non vale più la pena. Un giorno mi dici che lo vuoi, cioè che ti piace il tipo di apparato, un giorno dopo dici non ne vale più la pena, eccetera. Bisogna essere più determinati, con le idee più chiare. Io già ce le ho chiare le idee. E sei tu che non ce le hai chiare, io te l'ho detto, se me lo davi che mi serviva per l'estate, capito, per non usare questo qui, questo io non lo voglio usare lì, capito? No, ma non è che mi servi sempre in giro? Gianni, capisci al volo, è l'Alan, no? È un Midland, Alan 725. Prova, già sto uscendo, sì, ok, aspetta, innesca. È probabile anche che si senta appena di eco, non so se lo notate, proprio un'inizia. E poco, Marco, una punta, mi sento. L'importante è che non dia fastidio, ma c'è perché lo attivo, per far lavorare la scheda eco, non sia che se non lo accendi mai, praticamente non passa mai corrente nel circuito e non alimenta e praticamente poi non funziona più, capito? Bisogna attivare un po' tutte le funzioni in modo da far lavorare tutte le sezioni della radio. Mandamelo a Natale, non riesco a trovare. Ehi, aspetta un attimo che mi hanno suonato. Ehi, sempre con parentesi di bubu e non c'è nessuna frequenza. Anche se ho comprato un apparato che ha mollato tutto. Sì, devo dire poca gente, vabbè, sai cos'è già? E magari chi può sabato esce fuori, va in giro, insomma, anch'io, se il tempo fosse stato migliore, però il tempo è tutto coperto, cioè non mi voglia andare da nessuna parte, nemmeno in campagna, eppure devo fare delle prove, già, io mi sto baloccando con giocattoli nuovi, sempre da tiro. Ah, ne hai preso altri? Allora, come ce l'hai avuto tu, diciamo, no, simile, ma non uguale. L'ho avuto io, l'hai avuto tu. Stessa marca? Oddio, non mi ricordo. Allego foto comunque, dai. Mia. Comunque, io un po' me ne sono pentito di averlo dato. Era troppo bello che l'ho ritenuto bene. Era perfetto, non c'era un graffio. Già, perciò io quando la roba ce l'ho tendo a non darla, perché tanto io so che se me la fossi venduta mi sarei mangiato i soldi, perché poi non è che la puoi vendere come nuova, la puoi svendere perché c'ha 20 anni mica quella roba lì, la puoi vendere a un prezzo ragionevole anche per chi acquista e poi mi mangio i soldi e non mi rimane niente, beh, si già sta bene lì. Quando la voglio usare una volta ogni mese, ogni 6 mesi, ogni anno, la levo, la lubrifico se è necessario e la utilizzo. Ma io c'avevo tutto, c'avevo la custodia, c'avevo tutto quanto. Tutto, la custodia nuova, perché l'ho comprata a parte. C'avevo anche l'ottica. Ehi, la marca iniziava con la G di Golf? No, con la D. Ah, ho capito, sì. Produzione nazionale, dai, diciamo. Cappa. Sì, vabbè Marco, ma se stai a accumulare roba poi ti riempi la casa. Ti metti come quelli che non hanno più posto per passare. Non so se ne hai mai visti quelli che si riempiono la casa di roba e non vogliono toccarla, che non riescono manco più a passare, dormono in mezzo alla roba perché non c'è posto. Ehi, guarda che a periodi ci siamo andati molto vicino a me. Cioè io praticamente ho il vizio dello shopping compulsivo, come ce l'aveva mamma. Poi ci sono stati periodi che la stanza degli ospiti era inagibile per la roba, gli scatoloni che c'erano, mi abbiamo dovuto ripulire tutto. Tipo la GBC. Mi hai tolto la parola alla bocca. Sì, di quei conservatori che conservano tutto, libri, hanno fatto vedere, come si chiama, compulsivo, ossessivo compulsivo, qualcosa del genere. Magliano. Accumulatori sono quelli. Sì, noi abbiamo le mani bucate, cioè ci piace spendere quando ce n'è. Certo, quando non ce n'è non spendiamo, però noi in passato abbiamo abusato, cioè proprio anziché tenere i soldi da parte, no? Proprio a buttare, proprio a spendere. Guarda che tuttora io ci avrò roba di 20 portatili lì, PMR, Baobao nell'armadio, roba di 20 se non di più. E cosa ne fai? Tutti uguali? No, tutti diversi, ognuno ha una caratteristica particolare, uno ha lo scrambler, uno ha gli 8 watt, uno è piccolo tascabile, l'altro ha bande particolari e già, è roba piccola però, anche roba PMR tipo giocattolo, diciamo sommandoli tutti sono troppi, più di quanti ne servono. E li usi tutti, guarda. No, ogni tanto quando mi gira ne rispolvero uno, dipende cosa dobbiamo fare. Riprendete voi, dai, un attimo lo vado a bere. Via. Carta. Vabbè, dai. c'è chi ha la passione, c'è chi ha la passione, ci sono persone che collezionano baracchini, tutte queste cose. Io avevo la passione, ora ci bisogna avere anche il posto, io non so dove mettermi, io c'ho giusto il posto per questi, se ne prendo un altro non ci sta, lo devo mettere fuori. Ah, io Marco, vendimi uno di quelli che servono a me. Oh, Natalino mi sta corteggiando, mi vuole che gli dia il 5005. Però Natalino, tu ce l'avevi quella radio, via l'altra marca, ma era quella radio. E come mai l'hai data? E qual è stato un errore imperdonabile? Me ne è venuto, non c'ho radio, questo e quell'altro, che era così, già lo sai a chi l'avevo data. E poi infatti ho detto, non ti do più nulla. No, non me lo ricordo a chi l'avevi data, non... se ti affidi alla mia memoria, TK. Comunque c'è, purtroppo c'è la scheda un po' più piccola quella lì, però 163 euro, compresa la modifica, 163 euro, è un prezzaccio, cioè non ci compri nemmeno una RAM 48 del cacchio. Sì, lo so. Io la collezione di Natale 1964. Ne volevo una, se no mi tocca usare questo. Ehi, vabbè, una soluzione la troveremo, cosa ti dica? Siamo nell'uno e l'altro, mi. È che io sono affezionato a tutti e tre di quella serie lì, più questo. Questo sai che lo usavo da parecchio, perché alla fine quello che mi sta piacendo di più è il presidente. Presidente McKinley con le barre laterali, no? Questo è il DX10 ed era fermo lo stesso da un po'. D'altronde mi. Ha ragione Gianni, cioè attività, io non è che sia per i DX troppo, e gente ne sta entrando a poca, mi, molto ma molto poca. Niente. How do you do? È piccola, Gianni, è piccola. Non farti ingannare, è piccola. Però. Ciao, Marco. Sia. E HF non ne hai? No, no, HF no, niente. Io ho fatto l'esperienza al 140, però non mi ci trovavo e niente da fare, non ne ho più preso. L'857 l'ho venduto anni fa, e che quello va tutto, ma non me ne faccio niente, cioè a me basta un ricevitore radiolina come quello che ho io, che c'ha Natale, o tu anche tu ce l'avevi quello. Gianni, sei uscito riportante. Ma come incendi? Adesso? Adesso va bene. Prima tutto riportante, tutto. E non avrò schiacciato bene sicuramente. Però ti stavo dicendo che io me lo uso quando vado a farmi la doccia, il bagno, eccetera. Mi metto la radio e si sente veramente bene. Eia, eia. Ma anche tu hai quello, l'XHDAT 808? No, io non te l'ho mandato quello che c'ho io. Ah, quello con le... sì, col band, come si chiama, Waterfall. Roba di segnali, bobo. E anche io li sento, mi danno fastidio, vaffanguarda. Oh, signore. Cacchio, qua c'è il richiamo del gabinetto, devo andare in bagno, se no me la faccio addosso. Signori, a dopo se ci siete. Ehi, già sono qua io, non scappo. E beh già, trovato là l'apparecchio? No, me ne dà tanti tranne quello. Come? Me ne dà tanti tranne quello lì. Ah, cappa. C'ho un 23 canali pure. Tutto quartato. Gli ho fatto l'attacco per il TAN, quello è bello. Tutto cromato. Stanno vendendo un FM500S su internet. Sì, ma non me ne faccio niente di quelli, a me mi serve uno tipo il 3009, però aperto. Perché il 3009 sono omologato io e non lo voglio toccare. pure il martello l'ho toccato. E com'è arrivato? Nuovo, com'è arrivato il 3009? Ecco sì, ma io ho problemi che lo devo avere omologato. Io ce l'ho omologato lo stesso. Gianni, ma te lo immagini questo Natalino? Gli volevo regalare la HR5005, l'ha rifiutato, l'ha schifato. Dalla a me, dalla a me. E basta che non sia. Posso farti compagnia? Che se gli volevo regalare? Non credo che tu... Manca pagamento se ne dà. Io glielo volevo comprare e non me ne vuole dare, maledetto. Questo maccolino condo. Te l'ho detto, poi rimango senza, per quanto ne usiamo, alla fine usiamo sempre solo un canale, sempre solo in AM, potevamo avere anche il pony quarzato con un canale solo e non sarebbe cambiato nulla. No, io me ne vado alla tripla 5. Hai capito? Sto più là che qua. Non c'è che dire. Se no che divertimento c'è. Vabbè, anche quello è divertente, eccetera. Però un po' mi rompo le scatole anch'io, controllo 5-9, ok. Tanto se tu senti lui, lui sente te, a meno che non stia usando kilowatt lui. Però bene o male le persone usano intorno ai 100 watt, cioè la maggior parte dicono sempre un centinaio di watt. Poi c'è qualche ambiente che ne ha di più, però. Cappa. Ma cosa di più non fanno? Io poi mi metto a parlare, non è che gli faccio 5-9 solo, no? Capito? E quindi per me è diverso. Ma tu vuoi dire con gli italiani o con gli esteri? Perché con gli esteri puoi parlare inglese, però io... No. Cioè, non è che abbia padronanza della lingua inglese, io posso dare i soliti controlli, le solite menate, ma con gli italiani è già più interessante perché parli nella tua lingua madre, parli le solite cavolate, vabbè, del tempo, eccetera. Ah, io ho parlato con un'americana, sono stato un'ora parlando, c'era anche mia moglie qua, e io parlavo con questa americana, capito? Ma americano in inglese o di lingua anche italiana? Ah, no, in inglese. Vorrei avere... Capito. Una donna militare. Un ufficiale dell'esercito americano. Rimorchiamo! Ehi, Natalino vuole diventare italo-americano, capito? Sposare una americana ricca e così lo vedi col cappello tipo JR, eccetera. Natalino! Io sono già sposato. Ma se ti sposi in America vale lì il matrimonio americano, non fa niente. In Italia c'è una sposa, in America un'altra, in Asia un'altra, così bisogna fare. Ho una donna in ogni porto, come marinai. Basta che sia limone. E tu Marco, quanti sposi? No, sposare mai, perché le donne hanno troppe tutele ormai, capito? Ci rimettiamo solo noi maschietti alla fine. Allora, solo convivere. Ehi, però mi hanno detto che anche se convivi con una, lo stesso ha tutele, c'è un bel di tutele, cioè è un casino, Ne ho sentite certe nuove, cioè che io non sapevo. Caspita, proprio ci lasciano le mutande tutte quante, ma no, già non è il mio problema. No, niente convivere, la vita ospite, quando te ne stanchi un calcio in culo e fuori dai coglioni. Oxford. Natalino è di poche parole ma buone, dai. Io mi faccio capire, sono chiaro quando parlo. Nessuna convivenza, assolutamente. Ognuno a casa sua. E ha ragione. Natalino, tornando indietro, mi sei sposato. Cosa già? Non ho capito, ripeti che ero in cucina. Ho detto, ritornando indietro, ti saresti sposato. Le palle mi sarei tagliato prima di firmare. Allora dici concetta quello mattarello. Concetta già lo sa già detto. Che qualche giorno gli metto il veleno per tutti e l'ammazzo. manco, guarda che le donne ne sanno una più del diavolo, mi manco te ne accorgi, ti mette la ricina nel caffè e sei morto, manco ti rabbizzi e non lascia tracce. Partita mentre sei distratto e te la farò bere a te. Eia, sì, magari vai ospite, distratto, sbagliano la tazza e me la bevo io la ricina. Sì, è perfetto. La ricina è praticamente un veleno, una tossina potentissima, e non lascia tracce nemmeno nel sangue. È come che ti venisse un'influenza forte e muori. Ma non lascia scampo, è terrificante, è potentissima. No, ma io intanto faccio assaggiare prima lì, capito? Perché lo so che mi vuole ammazzare. Avete parlato in due. Così fai Natali, c'hai l'assaggiatore tipo i re, per vedere se li vuoi vanno a avvelenare. È malefica, usa il veleno, quindi bisogna farla assaggiare prima, a vedere se va bene di sale, capito? Ma sai cosa ho detto l'altro giorno a un amico? Proprio perché le donne certe volte sono peggio del diavolo. La donna non è nata da una costola di Adamo, è nata dalla costola del diavolo. E infatti ne sa una più del diavolo, e per rompicoglioni, mamma mia, lascia fare a loro. È una cosa, guarda, se non l'avessi visto con i miei occhi non ci avrei creduto che erano così. Natali, come la vuoi la... Guarda che rischi forte, mi concentrati a balena davvero, mi, oppure ti taglia il pisello quando dormi, tipo quella americana, mi. Già lo so, infatti sto attento, io già c'ho sempre la leffa sotto il cuscino, li tiro in stoccata. No, più che la leppa metti le mutande col lucchetto, almeno non può tagliare nulla, tipo cintura di cassità, mi, con la chiave, col lucchetto. Di quelle di ferro vogliono. Meno male che ci scherziamo su certe cose, invece hai visto ogni tanto trovi uno che ammazza una che ammazza uno, è ormai di moda, anzi se non ammazzi il coniuge non sei moderno, non sei in. Non ho visto quello che ha sterminato tutta la famiglia, ha ammazzato il figlio che era handicappato, l'altra figlia e la moglie, e poi si è ammazzato anche lui. No. Ma no, nuova notizia è. Sì, è nuova, è di oggi. Praticamente questo qua aveva una figlia handicappata, la dice che la vedeva soffrire e non poteva sopportare le sofferenze della figlia, e ha ammazzato tutta canta la famiglia, a chi l'ha preso male, dai. Ah, quella era fuori di testa e basta. Cosa gli ha preso male? Quella era fuori di testa di suo. Posso capire, e comunque non è assolutamente accettabile, vabbè, quello che pensava della figlia, no? Però dice, già che ci sono, lo stermino tutta la famiglia, mi sembra proprio, sì, roba da... Sicuramente è colpa del vaccino, fa impazzire la gente. E chissà cosa ci hanno messo in questo vaccino. Sto sentendo gente che muore troppo giovane, mio fratello è diventato cieco a un occhio, Luca gli è venuta una paralisi, lo stesso non vede, a un occhio. Un bel di gente rimane o handicappata o crepa subito, giovane mi, un infarto e fuori da e a San Paolo, do Brasile. Una mia ex ragazza è morta da poco, ha fatto il vaccino e il giorno dopo è grimbata, è uscita. Ne sto sentendo certe, guarda, chissà cosa hanno messo in questi vaccini. Io non ne faccio più, non me la fatti nulla. Li ho fatti, basta dai. E così farò io. Quando dovevo fare il quarto ero ammalato, quindi cosa andavo a farmi il vaccino? Così mi ammagabbava. No, meglio non farle, io non mi fido più. Sono tutte cavolate che sono cose del vaccino, avevano ragione i Novax. E quei medici che non se ne hanno voluto fare a corso di farsi irradiare, così Rusabbiani cosa aveva in mente? C'è anche i dottori lì, anche i dottori si sono rifiutati. Molti medici sono stati radiati dall'ordine perché non si hanno voluto fare il vaccino. Se non ce l'hanno voluto fare essendo medici, evidentemente c'era qualcosa che non andava. E beh, poi nei farmaci sempre qualche cosa che non va, c'è Natalia. Non è che facciamo bene i farmaci, è solo con sostanze chimiche. E infatti. Ma tu pensa quando ieri quando sono andato per l'esame del sangue con te? Avanti ieri ero in giro dalle 5 del mattino e nessuno me ne voleva fare di questi esami del sangue che mi ha prescritto quella di Tisi, l'endocrinologa che c'è a Tisi. Capito, perché sono esami particolari, non me ne hanno voluto fare al policlinico, né in via Lomberto, né alla Te Dolce, né all'ospedale di San Pietro, nulla. L'unico che me li ha fatti, ho trovato un'infermiera di buon cuore che mi ha registrato e mi ha fatto il prelievo al Palazzo Rosa. Capito. Sono passato prima di tutti gli altri addirittura, perché questa qui mi ha prenotato, mi ha pigliato brava venga, mi sentirà da dentro in un altro luogo, mi ha fatto il prelievo, via, 6 boccetti di sangue. Sono tornato a casa dalle 5 del mattino alle 10. Ma 5 ore nulla ci stato. E che esame era, Natalia? Che particolarità? Perché non lo fanno? Lo dovrebbero fare tutti. Poi potevi venire qua, pagavi l'ambulatorio che c'è sotto casa e ti facevano gli esami che devi fare. No, sono esami particolari, manca pagamento te ne fanno. Sì, per farmi perdonare. Solo il laboratorio dell'ospedale me l'ha fatto. E boh. Manca pagamento. Figurati, perché sono andato al policlinico addirittura, non me ne hanno fatto, non me li hanno fatti a San Pietro, al centro prelievi, cazzo, figurati, mi danno i battitori al Palazzo Rosa e boh. E a sapere se sei stato per Primolia e non avresti perso tempo. Come? Ah, se lo sapevo. Ma ci voleva la prenotazione, sono andato come ultima spiaggia. Perché il 13 devo portarli a Tisi quegli esami, devo fare anche un'ecografia all'addome, perché mi hanno trovato un nodulo anche lì, sul renale, figurati. Già c'ho l'aneurisma che è grande come una palla da tennis. Se scoppia quella, cazzo, chiudo bottega. Non essere tragico adesso, perché devi cuppiare. Avanti, Marco. Magari, per fortuna non è in testa, però è una brutta bestia l'aneurisma. Però sapevo che potevano trattarli bypassando, non so, cioè le tecniche ci sono, però vabbè, che devi trovare il chirurgo bravo a me. Cazzo, si chiama giovato di operazione, mi dovrò operare. Già, non mi vuole paghi di l'anca, che si è ritornato normale, invece non posso camminare, ne manco, mica sono messo male veramente io. Noi Natali siamo tutti nella stessa barca, chi più che meno, però ognuno ha la sua croce qua. Ma che croce? Signor Umberto Guarini. Cavolo. Certo. Qua io sono. Ma insomma, l'unica cosa che andava bene mi ha trovato la pressione a posto, quell'endocrinologa. E che alla tiroide non c'è un cacchio. Gli ho portato l'ecografia, poi mi ha visitato tutto quanto. Meno male che lì non c'è un cacchio, solo mi ha trovato questo nodulo sul renale, dall'altra parte, l'aneurisma è a destra, mi pare, e il nodulo è a sinistra, e vuole questa ecografia, insieme a tutte quelle analisi particolari che mi ha fatto fare. Sì, magari è una cistina. Io quando ho fatto l'ecografia si vedeva da una parte una ciste parapielica, non so cosa voglia dire, una cistina nel rene o aderente al rene, zona insomma lì. E quindi organi meccanismi perfetti non ne trovi, almeno che non hai proprio una botta di buccio, qualcosina, magari noduletti, cistine le trovano, ma niente di che, dai. A proposito, non sia nulla, perché qua non ne posso più, da un ospedale all'altro sono. A proposito, Natale, ma poi per la tiroide avevi fatto l'esame? Se te lo sto dicendo, la tiroide non l'ho fatta a tiri. Ah, quello, non ma dico, niente, erano nuduletti come ti avevo detto io, no, i sardi sono un po' soggetti. Non sono influenti quelli lì, quei noduli che mi hanno trovato alla tiroide, dall'ecografia. Mi ha portato l'ecografia, mi ha toccato, mi ha visitato, ha auscultato, è fatto e non ha ciappato nulla. Meglio così, tu ti davi già per spacciato, ti ricordi che la facevi tragica? Già, adesso bisogna vedere cosa è questa, devo fare, al policlinico mi tocca andare a farmela, non ce n'era a Platamona di ecografia, maledetti. Il policlinico va piano a terra, sei tranquillo, te lo fanno tranquillamente. E per posteggiare la macchina mi si rompono le balle. Gira gira, vado ad entrare e faccio prima. C'è il parcheggio dietro il policlinico, entri a pagamento, c'è il parcheggio, metti la macchina e qui puoi salire anche, puoi fare il giro, devi fare. Ma è quello che mi rompe le scarpe, non posso camminare più di tanto. Invece io ando in tram e faccio prima e me ne do in tram. Piano piano, e cosa vuoi fare? Vado in tram, basta. Così me ne scende lì. Comunque anch'io faccio così certe volte, in passato. Io ho sempre i biglietti delle tram, autobus, come vuoi chiamare. Io nonostante abbia la possibilità di avere macchina e moto, io quando non mi sento bene, che magari devo andare a fare i prelievi di controllo, in via del Trento passa il tram, la 6 o la 7, lo prendi, in un attimo sei zona via di San Pietro, è fatto tutto, è di una comodità. Addirittura se sono veloci riesco con un biglietto a fare l'andata e il ritorno, se risulta entro i, come dire, 90 minuti non vale il biglietto. Lo so, ma considerando il lavoro che ha fatto sia Mizzani, adesso andrò in tram, che ho deciso così, perché tanto dopo quando trovo il parcheggio dentro il policlinico mi tocca camminare ed è in assalta, non voglio scoraggiarla dal parcheggio, hai capito come il discorso, conseguenze che un matrimonio comporta. Vabbè, faccio pochi metri, mi viene un dolore allucinante alla gamba. E come ti capisco, quando mi faccio male a me, faccio non so che quella strada, mi devo appoggiare al muro perché non riuscivo a camminare. E allora, ha deciso di manifestarlo ancora. E ti fai forza, devi trovare un posto per sederti, se no non ti basta, non ti bosi. E allunghi l'anca. Sinceramente, mamma mia, c'è una volta perché ho camminato svelto a pigliare il tram, sai che lo perdevo. Mi è venuto questo, manco sul tram mi è passata, seduto lì, il dolore. Sono da via l'Italia, ho fatto al mercato qua un dolore allucinante, paro poco le lacrime mi erano i parenti. Qui già c'è mia moglie qua che lo può dire. Cura a me che sono diventato così. Io mi metto andando a baccata, girano i ribassoni che mi buniano il vatto camminenti. Chi è più di me ti può capire la storia? L'ho provato anche io con le cose, so cosa vuol dire. E poi molte volte non è finita lì, non è finita lì, molte volte, non solo della gamba, mi fa male il femore, un durore qua, o deve essere il freddo, magari quando fa freddo che mi fa male questo femore, l'attaccatura della gamba proprio, cazzo, un dolore della Madonna. Io mi sento più nel dolore all'inguine e anche al lato. No, al lato mi viene questo dolore, proprio della gamba. No, perché quando c'è il fervore consumato ti prende anche all'inguine il dolore. Però faccia va così, la linguine è un dolore fortissimo, ma il mio non era se camminavo, il mio ce l'avevo sempre fisso, quello è il problema, che mi scendevano le lacrime dal dolore. Poi questi mal di schiena che mi stanno bene, so tutto di graziato, ti gioco di zero, non pare vero, non sembro più io. È la tua, la vicina del Garrone. Ci vuole un po' di vitamina F. Sì, quella ti butta di più a terra. Cazzo. L'unica cosa positiva è che da 52 sono passato a 72 kg. Che si vede una bella biondona, Natalino, giovane, vedrai che ringalluzzisce. Ci mi bongusotto magari, io, e sombra edasi. Sì, sì, sì, guarda che guadagni 30 anni di vita, 30 anni di vita, diventi più alto, muscoloso, biondo, con occhi azzurri. E lei guadagna 5 centimetri, come diceva il mio principale, quello di Cagliari. Mi dicia, Natali, vai a farti spingere da un negro che guadagni 5 centimetri. Poi già, per quella cosa che avevi anche tu, io ero passato con la corta e che non c'ho foto, cacchio, non c'ho foto mie, c'ho un video, ho fatto, vabbè, accontentati di quello, le foto le posso prendere da internet. Avanti. Carta, e perché non hai chiamato la prima? Ciao Carlo, mi hai sentito? Sta andando a lavoro. Va bene, dai. Sono in compagnia di Natalino e di Marco Condor, dai, va per chi vuoi. Sta arrivando bene, però non ti posso dare il segnale perché questo apparecchio è avaro, capito? Come sta arrivando con il Santiago di 7, però dovrebbe essere 9, 8 e mezzo 9. Ciao Carlo, allora qui arrivi 9, Santiago 9, eccomi qua, vedi se mi ascolti, K, poi rimandiamo avanti a Natalino. Attaccato però. Prova a staccare. Eia, un attimino Natalino. Allora, Carlo, nudo e crudo, così è nudo e crudo, cambia? Diciamo il segnale è sceso un pochettino, però sei sempre su 7-8, Eia, vai Natalino. No, io non lo sento a Carlo, perché ho degli splatter, che c'è il mio vicino che sta operando sull'apparecchio mio e c'ho colpi come se fosse in banda laterale tremendi, sento solo lui al massimo. E dili di entrare qua, faccio 10. No, che sarà col carico fittizio e che sta pompando e mi dà colpi come in banda laterale. Non è uso antenna, non è antenna, capito? Uso il carico fittizio, però qua arriva lo stesso. Una persona che ti aiuta. Arriva lo stesso, strano, perché una volta, anni fa, quando avevo il carico fittizio, che poi si era rotto, non arrivava nemmeno al baracchino che era a fianco, con l'antenna di su, non arrivava proprio, zero segnale, zero, cioè tutto andava in calore, lo dissipava in calore, presumo, K. Vai Gianni. Carlo, quanto è alta quell'antenna? Guarda, dovrebbe essere un'ottantina di centimetri. Piccola quindi. Sì, abbastanza piccola, un po' grossa è, però ce l'ho sulla base magnetica e la sto provando. Immaginava bene, dai, perlomeno la tua tuba la ti ho sentito abbastanza bene, poi non lo so se poi più in là ti perdo o meno, ma comunque stai arrivando, dai. Beh, vuol dire che già è buona, dai, le vecchie antenne tipo frusta, diciamo che già vanno, dai, ancora sono buone. Benedetta, ciao Natalia, ti ho sentito un po' basso, ma adesso dovrei sentirti meglio, perché sono andato per toccare, sono quasi arrivato al fornitore sulla quattro corsie. Natalino c'ha splatter, capito, perché c'ha vicino un tecnico che sta usando il carico fittizio e dice che lo sta splatterando col carico fittizio. Già l'ho sentito, sì, l'ho sentito. Bene, Nera, riprendi pure Marco. Sì, un attimino che mando una cosa a Gianni e poi vi lascio che vado un attimo in bagno, che devo andare da prima, poi è passata la... vabbè, non entriamo in dettagli. Riprendi Natalia un attimino. Ehi, già abbiamo capito. Vai in bagno, vai. Se no te la fai addosso. Avanti già. Ehi, aspetta un secondo, parla con Carlo. E a Carlo non lo sento già. Non lo sento perché ho questi colpi di Smith di brutto. Vabbè, rimango in ascolto, quando rientrate già vi rispondo. Ciao Natali, io già ti sento, sì. Non so se adesso riesco ad arrivare. Eh no, non ti sente proprio. È Natalino un po'. Una zona un po' bruttina. Hai detto Carlo che eri a Tortubella prima? Ok, buono comunque, 9 un po' oscillante un po'. Sì, esatto Marco, adesso sono passato il rifornitore. Sono sul ponte del Rio Marco. Sì, bene o male il segnale rimane costante, dai, è una cosa buona anche, cioè non hai delle cadute di segnale, ma rimane abbastanza costante, abbastanza buono, anche l'intelligibilità, anche la modulazione va bene. Quel portatile va tenuto conto, è una bella modulazione, cioè rispetto ad altri almeno si sente, invece certi Midland, certi Intech, la modulazione era quasi azzerata, non si sentivano quasi. Hai ragione, Presidente, sono una garanzia. Niente, anche Gianni mi sente bene, ci sei ancora Gianni? Sì, sono qua, stavo mandando un filmato a Marco. Ci sono ancora, dai Carlo, sono qua. Hai visto già? Sì, confermo, bombolette CO2. CO2 per Gianni mi. Ho capito Marco. Marco, ho visto le... copiato, ho detto sì, confermo, sono quelle bombolette di CO2. Non l'hai visto tutto, vuoi vedere l'altro. Carlo, dove sei arrivato? Guarda, tra diciamo 1 chilometro svolto verso la camionale, perché entro la via d'Italia a quest'ora. Vabbè, comunque adesso la radio è perfetta, è 5. La radio è 5, ha migliorato anche il segnale. Sì, già va bene questa, perché ne ho preso 2 di fruste, però questa mi sa che va meglio dell'altra. Ma le hai tarate? Allora, la prima che ho usato non ha stato bisogno di tarate. No, e adesso mi dà 1 di stazionare, quindi già va bene. E la base cosa ci hai messo? Qualche base che ci avevi? Sì, la stessa base magnetica che usavo per l'altra. Ah, lo stesso attacco c'ha? Sì, esatto. Allora già va bene, dai, ti puoi cambiare gli stili come vuoi e va bene. Cava cava. E io la stavo cercando una così, però poi ho trovato quella lì che va bene. Ed è anche carina, non è molto grossa, non è rozza, dai, da vedere. Che attacco è? Però questo è uno stilo abbastanza grosso. Se vado oltre i 130 km orari, praticamente mi stacca la base magnetica alla fine. Fortunatamente me l'ha bloccata il campo, se no perdevo anche la... Devo stare in proiettile per lì. Se vado oltre, capito, questa antenna qua, troppo a posto, se l'altro è più usato, perché magari non vedo. Perché qua le... non sei uscito questo passaggio, c'era il segnale ma non la radio Gianni. Forse ho finito male. Ti stavo dicendo che praticamente quando l'antenna è rigida fa più forza, l'altra che avvivi fretteva e quindi forza non ne faceva. No. Esatto. Natalino, mi senti adesso? A momenti, perché mi arrivano questi scarichi? Sta usando più di 100 watt, sta usando. È per quello che mi arrivano colpi furbi. Ehi, AK, io già ti sento. Adesso sono sulla camionale, capito? Come finisco la curva inizio a vedere Sassari, quindi dovresti sentirmi anche meglio. Chi è che sta facendo i gargarismi? Chi è? Lo sentite? Ehi, quello che fa è... Sardinia Island Division 165 calling, standing by. Niente, niente, vuole solo radiare. Vai Carlo. Ehi, a noi accettiamo anche quelli. Buonasera a chi sbadigliava. 9 più, sei già 9 più, Carlo. E adesso sa stare in vista, capito? Sto entrando dalla camionale per via l'Italia, capito? Vabbè, allora, troppo vicino, dai, già non c'è storia, K. Vai Natalì. L'ho sentito anche io a Carlo. Adesso. Sta facendo delle tarature, sta pompando forte pure. Ma dov'è? Che canale è? Lo sai? Riesci a capirlo? No, non sono riuscito a trovarlo. Magari è in qualche canale alfa, tipo 11 alfa, 7 alfa. No, magari è lontano da qua per non disturbarci, però non sa che se pompi un bene a me mi arriva lo stesso. Chiamalo alla... No? Totano 2, no, lo chiami col mezzo. No, che ce l'ha spento. Che non potrei mai dire. Ce l'ha. Ci sono alcune. A quest'ora è spento, non lo chiamo neanche. Ma vabbè, se ne frega. L'importante è tanto è l'apparecchio mio che sta facendo. Ehi, ditemi un attimino com'è la timbrica di. Questo è il microfono originale dell'apparato, che è Rilemi, è tipo saponettina micro, è come quello dell'Intec grande. Però questo funziona, quello dell'Intec è tutto sciabidatto. Gianni, com'è la timbrica? Si sente un po' citofonica appena. No, non è come sentirti in verticale, ma è abbastanza bella come radio, dai. È una radio vera, una radio come senti in verticale. È buono a sapersi, dai. Bella, bella radio, dai. Ok, va bene. Vai Carlo, riprendi pure, dove sei, va bene, direi che ormai sia Sassari, quindi. Vi ho sentito anche dentro quella galleria che c'è prima di Via l'Italia, quella sorta di tunnel. Non vi ho perso a te a Gianni, vi ho sentito tutti e due anche dentro. Fatti il conto, quindi va bene, dai. Vedete la fissa di nuclear capote tramite fissa Carlo, perché quelle altre lì sono molto forti. Sì, questa va bene se la metto sulla basetta fissa, ma prima o poi la sistemo sulla capota. Lei è un amico al posto dell'antenna della radio, l'antenna della radio la metti nel tettuccio sotto il cielo, dai. E prende lo stesso, perché l'ha fatto Savio. Sì, lo so, ma in passato l'avevo fatto anch'io quel giochino e la radio riceveva bene comunque, capito? Senza nessun disturbo e niente. E là, sì, appena avrò il tempo, lunedì ho la macchina da portare dal carrozziere. Ah, ancora non te l'ha fatta? E mi ha chiamato ieri, dopo un mese e mezzo. Dice, lunedì c'è la porta alle 8, lunedì sera sul tardi, massimo martedì metà mattinata gliela restituiamo aggiustata. Ho detto, era ora. E quindi adesso ne tiro fuori tutto, perché non lascio niente dentro di queste cose. Tiro fuori la radio, lascio solo la base magnetica per non stare a tirarne il filo, capito, che mi passa sotto i sedili, eccetera. Tanto quella rimane attaccata allo schienale del sedile posteriore. E niente. E poi appena me la ridà il carrozziere, se ho tempo prendo e gli metto la basetta fissa. Ascolta, dove la stai portando la macchina? La sto portando da quello che c'è vicino a, come si chiama, Iperceramica, Grassi. Bello Grassi, che sì, è bravo quello lì, caspita, quello fa anche tutti i mesi dei vigili del fuoco. Sì, perché praticamente lui ha la sovvenzione con l'assicurazione, infatti non c'è stato neanche bisogno di utilizzare il perito, perché lui è sovvenzionato con la mia assicurazione, quella che mi avevi consigliato tu e poi Gianni, quell'assicurazione là, e ho portato tutto lì, dice vada da Grassi e le fa tutto lui, però ci ha impiegato un mese e mezzo. E quello c'è un bel lavoro, però se ha molto lavoro è perché è bravo. Prima erano Mele e Grassi, erano insieme, adesso è Grassi da solo. Sì. Sì, esatto, esatto. Sono lì viale, a Predanieta, dai. Sì, sì, lo so dove, perché ho portato la macchina della mia ex. Sei a tappa. Io adesso sono vicino ai Charlie Charlie, via Milano, adesso svolto. Kappa Kappa, non ti far vedere parlando, se no poi ti arresta. No, che già sono bravi. Se trovi quelli bravi. Oh già, Gianni, l'altra notte eravamo a mangiarci una pizza con un amico in una via non principale, e vediamo che si ferma questa pattuglia, credevo fosse 113, ma c'era la Guardia di Finanza e c'aveva dietro anche un furgoncino con un cane. E ho detto, buonasera, dovremmo fare un controllo antidroga, eccetera. E poi vabbè, ero con una persona che comunque lo stesso è pubblico ufficiale, quindi non ne hanno manco fatto controllo. E sono andati via, hanno salutato, sono andati via. E poi hanno chiesto, avete niente? Lui, no, non trattiamo quell'articolo. Però caspita, non avevo mai visto un controllo in vita mia, con proprio la macchina, più il furgone, con altro personale, più il cane antidroga, mai visto. Sono contento che i controlli ci siano però. Ma in città questo qua, perché questo qui io l'ho visto a Porto Torre, so fare l'uscita dal porto. La finanza con il cane. Quando sbarcavano le macchine le controllavano, adesso non ce n'è più, non li ho più visto, però quando tempo fa lo facevano, quando sbarcavano le macchine dalla nave, le facevano accostare, il cane andava tutto intorno alla macchina, io mi sa che come lavorava il cane. Sì, sì, in città. Guarda, abbiamo preso una pizza da Oggiano ed eravamo dalle parti di Via Fermi, quelle parti di zona San Paolo, no? Della chiesa. E stavano passando così, probabilmente stavano controllando, sai, greffette, gente che sa così, che frazza. Tu immagina, se fossimo stati frazzatori o spacciatori, era la fine. Meno male che non ti ha portato lo spinello appresso. No, io cuocomane, casomai, capito, è roba bianca, neve. Comunque non li avevo mai visti, anche lui era stupito, anzi, meno male che in città le stanno facendo questa attività, perché anche si sta intensificando, ha detto la Nuova Sardegna, questa storia delle droghe, non solo eroina o fumo, anche crack, sta girando di tutto, capito? E quindi bisogna fare un po' di pulizia, ecco. Riprendi Carlo. Sì, sì, già li conosco quei controlli, da noi ci sono tutti i giorni e i cani sono tutti da noi, ce ne sono 6 all'interno dell'aeroporto, la squadra cinofili è da noi e partono da lì. E se li hai visti in Via Fermi, perché lì hanno una caserma in quella zona loro, quindi sicuramente stanno uscendo lì, erano nelle vicinanze loro. Un paio ce li hanno anche a Santa, lì è i cani, però la squadra grossa ce l'hanno ad Alghero da noi. E poi sulla Nuova ho letto che hanno fatto vedere uno dei cani da antidroga, io credevo che usassero sempre solo i pastori tedeschi, invece ho visto anche un Rottweiler, c'era la foto sulla Nuova o sull'Unione Sarda, non sapevo questo fatto. A Pernottese c'era un meticcio, era più bravo dei pastori tedeschi trovando la droga. Che un labrador hanno e va lo stesso, dipende dal cane, loro quando le addestrano da piccolini praticamente si rendono conto quale è più portato e quindi non stanno a guardare la razza ormai. No, per la droga basta un qualsiasi cane, se tu addestri il mio la cerca ugualmente. E meno male non ho fermato Natalino che è coccovale. Infatti, io sono cocuoma e a me non mi cercano. Io non mi fido mica in quei tramiti. Cercano i drogati come voi. Drogato! Gianni mi ha ruotato la battuta, volevo dire, bisognerebbe mandare a casa di Natalino quel cocomane, però Gianni mi ha anticipato. No, vabbè, una volta stavo andando a pescare alle 4 di mattina, sono andato a prendermi il posto, perché se no te lo fregano poi e quello era un bel posto. E stavo andando alle 4 di mattina, avevo preso seguitato i carabinieri sino al porto, mi hanno puntato il faro.